Hai visto che non ci ho messo tanto, proprio come ti avevo detto. Hai visto non mi sono distratto, o forse solo per un momento. E accelero dentro il tuo cuore, anche senza chiamarti amore. Mi sforzo per imparare due parole. Oh, oh, ti amo troppo forte. Così tanto forte, che sono troppo forte. Ti amo troppo forte, ma così tanto forte, che con le gambe rotte vado sempre più forte. Magari ci vorrà un po' di tempo, magari il tempo scorrerà lento, ma impareremo a vivere il momento. Magari impareremo seguendo il vento, perché non c'è un giorno migliore. Sto sveglio per 24 ore e oggi imparo a dire due parole. Oh, oh, ti amo troppo forte. Che ci contraddistingue, e poi ti stringo forte come fosse niente, come sempre. Me l'hai detto tante volte, vai se vuoi andare vai, concentrato e sempre più attento, e vado forte sempre più a tempo. Ti amo troppo forte. Troppo forte.